Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Lo sapete qual è la migliore amica di una donna? Lo scopriremo tra pochissimo. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi nella prima parte di Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, racconteremo proprio come un importante accessorio della moda femminile riveli molto della personalità delle sue proprietarie. Focus sui trend dedicato invece ai consumi imperfetti, quando i difetti fanno tendenza. Prima però ci sono le notizie e curiosità di questa settimana. Le famiglie italiane danno un taglio ai consumi. Il deciso calo delle vendite a marzo, meno 2% rispetto a un anno fa, testimonia una frenata generalizzata che tocca tutti i settori, compreso l'alimentare, e tutti i tipi di punti vendita, inclusi ipermercati e discount. In calo anche alcuni dei beni più amati come cellulare, abbigliamento e calzature. Tengono invece elettrodomestici e TV. Olivicoltori sul piede di guerra in Australia per la decisione del governo di imporre che sigarette e sigari siano venduti in pacchetti anonimi di colore verde oliva, il meno attraente secondo un'apposita ricerca. L'associazione di settore ha chiesto al ministro della Sanità di sostituire il termine verde oliva con verde tetro o grigio verde. Lo shopping divora una parte sempre più consistente dei redditi delle donne britanniche. È quanto emerge da una ricerca dell'Università di Cambridge, che rivela come le inglesi acquistino in media la metà del loro peso corporeo, circa 28 kg, in vestiti all'anno. Possiedono 4 volte i vestiti che possedevano 20 anni fa e hanno in media una ventina di indumenti mai indossati. Tutta colpa, dicono gli esperti, della fast fashion. Un tour in 15 città italiane a caccia di testimonial. È il casting che Tim ha organizzato coinvolgendo i propri clienti, che diventeranno i protagonisti di una campagna stampa nella propria città. La bella stagione conferma il trend di crescita del turismo ecologico. Secondo l'ultimo rapporto EcoTour, sono in aumento in Italia fatturato e presenze negli esercizi ufficiali delle aree protette. Gli italiani che quest'estate andranno in vacanza in una destinazione verde aumenteranno del 3% rispetto all'anno scorso, raggiungendo quota 12%. La borsa della spesa. Shopping bag o clutch, mini o maxi, sono proprio le borse le migliori amiche delle donne. Non peraltro molte hanno nomi femminili: Kelly, Jackie, Caroline, Sofia. Lo dice l'esperta di moda Nina Garcia, che individua nella borsetta il primo segno dell'indipendenza femminile. Spinte al boom dal sistema moda, che fa degli accessori i prodotti forti del mercato, le borse raccontano molto di chi le indossa. L'americano Robert Anderson, nel libro 50 Bags That Changed the World, le 50 borse che hanno cambiato il mondo, racconta 50 modelli icona che hanno fatto storia e li mette sul lettino. Poco di zucchero, la pillola va giù, la pillola. Strana la valigia che hai. Tappeto. Servi a portarci tappeti. È fatta con un tappeto. Il posto migliore per attaccare un cappello è un bel attaccapanni. Ma dentro la valigia non c'era niente. Ci vuole più luce, forse. Non sono tutte capienti e rassicuranti come quella di Mary Poppins. La maggior parte, però, diventa quasi un'estensione del corpo femminile. Inseparabili compagne della vita di ogni donna, oggetto del desiderio in versione it bag, le borse contengono e rivelano i segreti delle loro proprietarie. Indipendenza ed emancipazione, la mitica pochette De 55 di Chanel. Pragmatismo, la Neverfull bag di Louis Vuitton. Aggressività, la Warrior bag di Burberry. Inflessibilità, l'Antigona di Givenchy. Su tutte regna incontrastata la Kelly di Hermès. Disegnata nel 1930, ribattezzata nel 1956 con il nome della principessa Grace, è considerata una sorta di lascia passare, un passaporto sociale, che pone chi la indossa un gradino sopra tutte le altre. Molte delle hit bag di culto hanno prezzi inaffrontabili, ecco spiegato allora il successo dei siti che affittano le borse oppure di quelli che propongono l'usato firmato oppure ancora lo swapping, il baratto. Ma anche molti nomi nuovi stanno diventando di culto, ci dice Teresa Cannatà, blogger, nota in rete come Super Queen. Ci sono i classici e molti brand italiani come ad esempio Gucci o anche Fendi che sono comunque sempre sulla cresta dell'onda, anche con diciamo dei modelli che ricordano un po' più l'ambito, come dire, artigianale, ecco, dell'oggetto. Ad esempio la Peekaboo di Fendi è comunque una borsa che all'interno cela una sorta di fodera che può essere personalizzato, comunque fodere sempre diverse. Per quanto riguarda brand invece statunitensi c'è Derek Lam e Philip Lim, che sono appunto dei designer di origine asiatica, emergenti, molto famosi anche perché molto spesso i loro capi li indossa la First Lady, che si stanno imponendo un po' nel mercato delle borse per i loro modelli. Alexander Wang, anche lui di origine asiatica, che ha presentato molti modelli in pelle lavata o in denim lavato con degli effetti un po' pelle rovinata, ecco, tra virgolette, che attualmente sono molto amati. Poi naturalmente i classici francesi che non passeranno mai di moda. Come si sta muovendo il mercato? Le hit bag sono ancora l'oggetto del desiderio? Da un certo punto di vista sì, però non così come lo era qualche anno fa. E forse perché il mercato si è un po' differenziato e di conseguenza magari in una stagione non viene lanciata una hit bag o comunque non lo diventa solo una, ma magari ce ne sono diverse, di conseguenza tu puoi scegliere di comprare una piuttosto che un'altra. Ecco, diciamo che il mercato da questo punto di vista secondo me sta diventando più democratico. All'inizio degli anni 2000 la borsa da avere era una, ecco, diciamo, per stagione, oltre ai classici naturalmente. E adesso magari sì, i classici di Vuitton vanno sempre senz'altro e sono sempre visti come un oggetto del desiderio, così come le borse di Hermès naturalmente. Però adesso anche brand più di nicchia, tra virgolette, o comunque meno conosciuti dal grande pubblico come Celine, hanno prodotto delle borse che sono diventate molto famose, quindi anche loro si sono un po' accaparrati una fetta del mercato. C'è sempre la rincorsa ai modelli indossati dalle celebrities? Assolutamente sì, ma inoltre negli ultimi anni ho notato, visitando anche diversi blog di moda o di street style, che molti acquirenti hanno come punto di riferimento magari la stylist famosa, che ne so, Anna Dello Russo, la sua collaboratrice, oppure delle giornaliste di moda. Ecco, c'è stato questo spostamento, quindi coloro che seguono la moda, anche semplici blogger, hanno molto spesso come punto di riferimento non tanto le celebrities, che siano cantanti o attrici, ma insider, quindi persone che lavorano nell'ambito della moda. Un gioiello finto e ammesso, una borsa taroccata mai, consiglia un'icona dello stile come Inès de la Fressange, ex top model e musa di Chanel, che aggiunge: piuttosto che indossare l'imitazione di una borsa, presentatevi al cocktail con una tracolla in paglia intrecciata di positano. Proprio a liberarsi dagli imperativi della moda per costruirsi uno stile personale, insegna Petra Goethe, ideatrice del network Class Up. La moda deve sempre rinnovarsi, fare nuove proposte, alla fine con lo scopo di vendere. Una donna normale, professionale, di una certa età che ci si fa vedere, non può tutte le stagioni rinnovare il suo guardaroba. Primo punto, molto costoso. Secondo punto, è anche una mancanza di giustificazione. La donna si cura di sé, non vuole cambiare il suo stile ogni stagione perché cambia la moda. Vuole tenere il suo stile. Cioè, le icone dello stile, le donne che ammiriamo tutti, comunque sono sempre state fedeli ai loro stile personale. Il multitasking di un capo è molto essenziale. Cioè, certamente ho bisogno di 2 o 3 tipi di pantaloni con una gamba diversa, in colore sobri o tessuti sobri, la camicia bianca, l'impermeabile, delle ballerine, un décolleté classico. Certe cose che semplicemente non possono mancare, una giacca sobria invece una giacca con un disegno che è comunque multiadattabile per vari look, è molto importante, con pochi capi che sono intercambiabili, creare più look possibile. È più difficile oggi trovare uno stile personale o è più facile rispetto a un tempo? In un certo senso è più difficile, ma più importante di averlo, perché con questa confusione che si trova sul mercato è difficile per le donne di orientarsi e di sapere che cosa mettersi o no, perché le proposte anche delle case di moda, e io ho lavorato 35 anni in case di moda, anche di alto nome, devo dire, ogni tanto veramente stiamo parlando dei look volgari. La donna è confusa, non c'è dubbio su questo. Sviluppando il suo stile personale lo rende molto più facile, perché non è tentata di comprare delle cose che, prima cosa, perché lei non vanno bene e che non ha nessuna durata e non la valorizzano. Rilassiamoci dunque e scegliamo in autonomia, senza soprattutto l'ossessione della perfezione, anche perché, ebbene sì, sono i difetti a fare tendenza. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, seconda parte dedicata come sempre al focus sui trend, in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello di Memetti Club, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Consumi imperfetti, il tema di oggi. Parliamo cioè della tendenza che fa del difetto voluto, dell'incompletezza, dell'imperfezione il proprio punto di forza. Dagli orli e materiali grezzi nella moda al design imperfetto, dagli antieroi di molte serie TV ai social network per la condivisione dei fallimenti. Insomma, l'importante è sbagliare, o perlomeno fare finta di farlo. Patrizia. L'imperfezione, cominciamo dall'estetica, è un'estetica altra, è una poetica, anche uno stile che trova interessanti espressioni nel mondo dei consumi, in molti oggetti, in molti prodotti, tranne quelli tecnologici, per i quali continuiamo a coltivare l'ossessione della perfezione, tant'è che quando hanno un difetto, quando non sono più perfetti, non vengono per lo più riparati ma sostituiti. E invece l'imperfezione è calda, avvicina, attrae, è emozionante. Il riferimento imprescindibile in tema di imperfezione è il paradigma estetico giapponese wabi-sabi, secondo cui si può raggiungere eleganza, armonia e bellezza proprio attraverso l'imperfezione, perché la bellezza è imperfetta, impermanente e incompleta. Le caratteristiche di questo canone estetico, di questo stile, diciamo così, includono asimmetria, asperità, irregolarità. Dunque un'etichetta, quella del wabi-sabi, che definisce per lo più, anche nel mondo giapponese, oggetti artigianali non raffinati, dalle superfici ruvide, irregolari o consunte, come le tipiche ceramiche raku. E dell'incompletezza, Shinichi Maruyama, fotografo giapponese trapiantato a New York, ha fatto proprio la sua monomania. Kusho è una collezione di 23 scatti in cui questo artista immortala l'interazione tra getti d'acqua e inchiostro nero che lancia nell'aria e che si fondono in meravigliose coreografie, appunto, sospese. Questo fotografo cattura questo istante esatto in cui i due liquidi si incontrano prima di mischiarsi fra loro, e quindi una sintesi di incompletezza imperfetta, ma di fatto un'estetica meravigliosamente perfetta. E passando ai prodotti, al mondo dei consumi, sulla voluta, come dicevi, imperfezione, cioè i difetti ricercati o l'imperfezione qualitativa degli oggetti, l'ultimo salone del mobile ha fornito alcuni esempi che possiamo rubricare proprio come una sorta di elogio dell'imperfezione, che diventa sostanziale, diventa parte differenziante del contenuto, quindi segno di distinzione e unicità. Due casi esemplari: i fratelli Campana con la poltrona grinza e il divano sfatto progettato da Francesco Binfare, entrambi prodotti da Edra, interpretano, a partire già dai loro nomi, proprio il tema dell'imperfezione come necessaria per una nuova idea di comfort che risponde, in questo caso parliamo di poltrone e di divano, a posture ed ergonomie di corpi che su quelle poltrone e su quei divani si siedono e si sdraiano davvero. È un'imperfezione progettata per oggetti colti e decadenti, come li ha definiti lo stesso Binfare, che sono una metafora molto interessante della nostra civiltà occidentale. Su un analogo principio di estetica alternativa, ma all'insegna dello squilibrio, delle proporzioni e dell'instabilità apparente, la libreria Ivi, moduli identici sovrapposti in modo irregolare di Thomas Bernstrand per Suedese. E anche il nuovo protagonismo del legno e di tutti i materiali grezzi nel design e nell'arredo è riconducibile alla bellezza grezza delle materie prime originarie, quelle segnate dal tempo, cariche di storia, come il tavolo riciclato con rivestimento di noce che sembra colpito da un fulmine che l'ha divelto dall'interno, del designer americano Dylan Gold. Molti dei protagonisti delle nuove serie TV, lo abbiamo detto anche in altre puntate, sono personaggi imperfetti, a volte sono dei veri e propri antieroi. Dottor House, il protagonista sesso dipendente di Californication, i trafficanti d'armi di Sons of Anarchy, l'arrogante Kenny Power di Eastbound and Down, i disadattati di Misfits e la scombinata famiglia di The Middle. Ah, le vacanze estive. Passare i fine settimana al lago, attraversare il paese in camper, Disneyland. Tutto questo costa, però. Ecco com'è andata la nostra estate. Oh, che noia! Ragazzi, è estate, alzatevi dal divano e andate a giocare all'aperto. Sì, forte! Come non detto, tutti dentro a guardare la TV. No. E finalmente arriva il giorno più bello dell'estate. L'ultimo. Quello in cui i ragazzi tornano a scuola e tu puoi rimettere un po' di ordine nella tua vita. Non possiamo fare tardi il primo giorno di scuola! Andiamo, andiamo! Dov'è Axel? Brick, sveglia tuo fratello! Axel! Sveglia! Ti sei lavato i denti? No, quest'estate ho perso l'abitudine. Tieni, sciacqua e sputa. Dove sono le matite? Mike, dove sono le matite? Hai detto che le avresti rubate al lavoro. Ho preso troppe cose, Alert mi sta addosso. Ecco il pulmino! Metti lo zaino e va! C'è scuola oggi? E quando pensavate di dirmelo? Grazie, mamma! Forza, tutti forza, fuori, forza! Muoversi, muoversi, muoversi, muoversi! Muoversi. Divertitevi, ci mancherete! Abbiamo perso il pulmino. Quanti giorni mancano all'estate? Patrizia, prima abbiamo parlato del design. C'è spazio per l'imperfezione anche nel mondo patinato per eccellenza, quello della moda? Certo, non solo nella moda, ma chiaramente in questo ambito in cui si osa sempre molto, la direzione sperimentale, per esempio, di molte collezioni primavera-estate 2011 è proprio la simmetria, lo squilibrio delle proporzioni, dei volumi e in un certo senso anche l'anarchia delle forme. Quindi possiamo ricondurre anche questi approcci al grande tema dell'imperfezione. In un'altra puntata avevamo parlato dello stile clochard. Bene, anche i vestiti premacchiati, quelli stracciati, quelli consunti, sdruciti, sono di fatto delle imperfezioni ricercatissime. L'ultima che ha fatto notizia è Heidi Klum, ma sono molte, è un fenomeno, le celebrities che si autofotografano in versione acqua e sapone, quindi in versione imperfetta, e postano poi le loro foto che girano su Twitter. Dunque immagini e set imperfetti per un personal branding davvero originale. Anche nel mondo dei consumi culturali per ragazzi, dopo anni di Harry Potter e di onnipotenza legata alla perfezione delle arti magiche, un successo letterario internazionale, Diario di una schiappa, sull'inadeguatezza, la sfortuna, la vita imperfetta di un qualsiasi ragazzo comune. E poi l'applicazione per iPhone, Instagram, che consente di fare scatti fotografici come se si usassero vecchi rullini o apparecchi fotografici d'epoca. Una poetica retro, il fascino dell'imperfetto legato al low-fi, cioè alla bassa fedeltà, alla bassa risoluzione in opposizione alla perfezione digitale. Crumple City, azienda di design italianissima che le produce a Firenze, stiamo parlando delle mappe stropicciate. Sono delle mappe da usare come guida nelle città, realizzate in materiale morbidissimo, impermeabile, è un tessuto che anche se si bagna non succede nulla. Non sono quindi piegate come le solite mappe, ma sono già appallottolate e riposte in una scatola, quindi una soluzione creativa molto interessante al problema di fatto delle cartine che una volta aperte non si riescono mai a ripiegare e riportare alla perfezione originale. E rimanendo in tema di carta non intonsa, il numero di maggio di 02, il mensile di informazione sugli eventi di Milano, è pre-scarabocchiato con cerchi, note, sottolineature e rimandi come se fosse già stato usato da qualcun altro. E ancora a Milano alcuni ristoranti come Gâteau o The Small fanno dei servizi scompagnati, un po' scheggiati e in alcuni casi proprio rotti, una scelta precisa di originalità. In linea con questo, l'ultima collezione di Seletti Hybrid Ceramics, vista al fuorisalone di quest'anno, tazze, piatti e bicchieri diversi rotti in due pezzi e poi reincollati a caso insieme. Per estensione, imperfezione è anche errore. Nessuno è perfetto, si dice proprio quando si sbaglia, e questo è il concetto alla base del social network Admitting Failure, ammettere i fallimenti. Obiettivo: condividere progetti umanitari fallimentari in chiave di apprendimento collettivo per privati, donatori, governi ed enti benefici di tutto il mondo. È nato in Canada. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Hong Kong su consumi imperfetti e dintorni? Questo è il momento dei nostri Urban Watcher e delle loro segnalazioni dal mondo. Pier Vigevani, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, grazie mille. A Hong Kong accadono cose particolari in nome del Feng Shui, che è una, alcuni degli ascoltatori lo sapranno, una filosofia che propone un certo tipo di estetica, molto incentrata sul flusso della natura. C'è un palazzo in una bellissima baia che si chiama Repulse Bay, un palazzo residenziale come tanti di quelli che si affacciano sull'oceano, solo che ad osservarlo con precisione l'occhio anche non attento si accorge di una cosa. In quel palazzo c'è un buco, una sorta di quadrato di una ventina di metri all'interno della facciata, come se una mano gigante avesse scavato un tunnel alto 4 piani. Hong Kong è da sempre la città degli spiriti dei draghi. Si narra che dalle colline di Kowloon scendano ogni notte gli spiriti di 7 draghi che vanno verso l'oceano a visitare la città. Ebbene, gli abitanti di Hong Kong non potevano fare un torto a un drago che sta sopra le colline di Repulse Bay. Il drago doveva avere la possibilità di vedere innanzitutto il mare, l'oceano dalla sua casa, e doveva avere anche la possibilità di arrivare verso il mare, di arrivare verso l'oceano senza trovarsi davanti quel grande palazzo. Ecco perché quindi si è deciso di cambiare il progetto esecutivo e di realizzare questa modifica proprio in suo onore. Si può dire che a Hong Kong le esigenze dei draghi vengono prima di quelle degli architetti. Carina. Grazie Pier. Patrizia, in conclusione, un esercizio di stile, una provocazione, qual è la cifra distintiva di questa tendenza? Ma ripeterei un concetto che ho detto tra le righe, cioè l'estetica dell'imperfezione è uno dei modi per osare di più, di fatto può essere un posizionamento per prodotti e servizi, dunque uno dei modi per distinguersi e collocarsi sul mercato in maniera precisa come oggetto imperfetto, come brand imperfetto, come servizio imperfetto. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, resta solo il tempo per ricordarvi il nostro sito radio24.it dal quale potrete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 16. Non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.